Così, per quanto divenire socio della fabbrica di birra sembrasse il destino naturale di James, Everard fu molto lusingato dalla sua decisione e si affrettò a mettere in pratica tutte le migliorie scientifiche che il figlio gli suggerì. Nonostante l'innata diffidenza che nutriva nei confronti delle innovazioni, sperava che James potesse trovare in quell'interesse un'innocente distrazione dal suo dolore e con lo stesso spirito paterno con cui in passato gli aveva regalato un fucile giocattolo, gli comprò una nuova tramoggia. James si dimostrò molto soddisfatto del suo funzionamento, ma fu impossibile scoprire se fosse servita a consolarlo un po'. Lui nascondeva troppo i suoi sentimenti e in un'iperbole di reticenza circondava di riserbo la sua stessa riservatezza, tanto da apparire semplicemente un giovane rosso di colorito e moderato nella conversazione. Everard e Laura non raggiunsero mai con lui quello stadio di confidenza che consente ai membri della stessa famiglia di accettarsi a vicenda sulla base dell'esteriorità. In ciò che provavano per James c'era una sfumatura di soggezione, quella che l'amore apprende nel momento in cui si scopre vano. Tuttavia, erano felici di averlo con loro, specialmente Everard, che invecchiando accoglieva con gioia la prospettiva di poter posare cautamente alle proprie responsabilità, compresa quella intrinseca all'essere un Willhouse, su spalle più giovani delle sue. Nessuno era più adatto di James a farsi carico di quel fardello. Tutto in lui, dal suo modo di montare a cavallo, alle relegature in pelle che sceglieva, testimoniava, in fatto di buon gusto e buon senso, un'integrità e un discernimento misurati ed eletti. Le relegature in pelle finirono presto nelle mani di Laura. Le serviva proprio qualche libro nuovo, dato che ormai aveva quasi esaurito i volumi della biblioteca di Lady Place. Se lo avessero saputo, le signore vestite di seta e di foca avrebbero scosso il capo ancor più indignate al pensiero di come cresceva quella ragazza. Ma naturalmente non potevano immaginare che le letture di una giovane di loro conoscenza non fossero soggette ad alcuna limitazione. Né Mrs. Willhouse aveva mai sentito la necessità di edurle in proposito. Così Laura aveva potuto leggere indisturbata e senza disturbare, dal momento che ai tè o ai balli locali la conversazione non le offriva mai l'occasione di citare niente di quanto aveva imparato da Locke sulla conoscenza o da Glenville sulle streghe. In effetti, siccome in genere non sapeva un granché dei libri che era permesso leggere alle altre figlie, le madri del vicinato la consideravano piuttosto ignorante. Questo, peraltro, non la metteva affatto in cattiva luce ai loro occhi, visto e considerato che la sua ignoranza, seppure mai tanto fastidiosa quanto l'erudizione, quando si trattava di trovare marito, era una qualità così poco edulcorata da risultare del tutto priva di fascino. Né avevano motivo di essere scontente del suo aspetto, dato che le sue attrattive non erano più edulcorate di quelle intellettuali, e quell'aria ben educata la faceva sembrare più vecchia della sua età. Laura era magra, di media statura, e aveva lineamenti piuttosto spigolosi. La sua carnagione scura tendeva al giallastro e sembrava ancora più scura per contrasto con gli occhi, grandi e distanti l'uno dall'altro. Di quella tonalità di grigio che non dà né sull'azzurro né sul verde, ma sembra soltanto un nero molto diluito. Occhi così sono rari in qualsiasi viso e ancor più rari se accompagnati da un colorito olivastro. Nel caso di Laura, l'effetto era troppo inquietante per risultare piacevole. Chi non la conosceva giudicava il suo aspetto singolare, ma non si avventurava oltre. Chi invece era più abituato a vederla la trovava scialba. Soltanto Everard e James, se qualcuno avesse chiesto la loro opinione, l'avrebbero definita carina, non solo per la parzialità di un Willhouse nei confronti di un altro Willhouse, ma perché la conoscevano per com'era in casa, quando la vivacità le coloriva le guance e animava le sue movenze. Fuori, in compagnia, non era mai vivace. Non le piaceva uscire, raramente partecipava ai ricevimenti, a parte quelle cerimonie in cui la presenza di Miss Willhouse, di Lady Place, era un gesto di cortesia da cui era impossibile esimersi, e in quelle occasioni trovava ben pochi motivi per essere vivace. Non conoscendo la civetteria, non si sentiva obbligata a simulare un grado di divertimento che non aveva sperimentato, e quella stessa lacuna la rendeva insensibile al dovere di ogni ragazza da marito, cioè quello di esercitare il proprio fascino, sia che esso abbia un oggetto particolare, sia che in mancanza di tale oggetto venga genericamente elargito sotto forma di disinteressato amore per l'umanità. Un simile atteggiamento era probabilmente dovuto al modo in cui era cresciuta, almeno così si diceva. Ma quello in realtà aveva solo approfondito un'innata indifferenza al bisogno di trovare marito, o per meglio dire, a quello di fare alcunché di positivo. E l'indifferenza era stata rafforzata dalle circostanze che avevano creato tra lei e suo padre un rapporto così stretto. Niente può minare l'inclinazione che una giovane donna prova spontaneamente verso i suoi coetanei più dell'intimità con un uomo che ha il doppio dei suoi anni. Laura paragonava a suo padre tutti i giovani che in altre circostanze avrebbe forse accettato, senza confronti, come gli adeguati destinatari delle sue attenzioni, e loro avevano sempre la peggio. Erano belli, vigorosi e sparavano ai fagiani con grande precisione. Oppure erano arguti, eleganti e soci di un club londinese. Ma lei non passava neanche per la testa di rinunciare alla compagnia di suo padre per la loro, nemmeno quando le facevano chiaramente capire di desiderarlo, e fino a quel momento dedicava loro scarsissima attenzione, sia nei suoi pensieri sia nei fatti. Di ritorno dall'India, dopo aver riempito la stanza degli ospiti di una quantità di casse di cedro, zia Emmy fece bruscamente notare a Everard: «Mio caro, è ora che Laura trovi marito. Com'è che non è ancora sposata?» Ma poi, cogliendo sul viso del fratello un vago spasimo d'angoscia davanti a quella schiettezza da commilitoni, aggiunse: «Una ragazza come Laura ha solo l'imbarazzo della scelta, con quegli occhi da gallese. Ogni volta che mi guarda mi fa venire in mente la mamma. Everard, devi lasciarmela portare in India per una stagione.» «Devi chiederlo a lei», rispose Everard. E uscirono insieme nel frutteto, dove Emmy raccolse le mele che il vento aveva fatto cadere dall'albero, addentandole con la bramosia dell'esule. Per il momento non ne parlarono più. Emmy sapeva di aver fatto un passo falso. Vergognandosi di aver trasgredita un dettame dei Willows, quello relativo alle intromissioni, rievocò la loro infanzia passata all'ombra di quegli stessi alberi, ben felice di una simile occasione per riguadagnarsi le grazie del fratello. Ma Everard taceva, chiuso nella sua pena. Era convinto in buona fede che se si sentiva sollevato al vedere i corteggiatori che sbocciavano intorno a Laura, falciati ancora prima che potesse ferire l'amore, era perché nessuno di loro era degno di sua figlia. Everard aspettava in tutta innocenza il pretendente ideale, proprio come avrebbe potuto fare Laura, che però non aveva di queste preoccupazioni. Ma ora l'invadenza di Emmy aveva gettato un'ombra fredda sul lontano futuro che sarebbe seguito alla sua morte. E quanto al futuro prossimo, non aveva parlato di portare Laura in India? Lui si sarebbe comportato bene, non avrebbe detto una parola per dissuadere la ragazza da una scelta che poteva essere vantaggiosa per lei. Ma il solito pensiero che Laura potesse lasciarlo per un paese tanto lontano, per un modo di vivere così diverso da loro, ogni calore svaniva dai suoi giorni. Emmy presentò il suo piano a Laura, o per meglio dire, le presentò l'involucro che lo conteneva. Laura ascoltava con piacere le storie di vita indiana che le raccontava la zia, le residenze britanniche, i manghi, le cavalcate di mattina presto in Kilpau Road, il canto borbottato degli indigeni che accompagnavano in portantina le Mem Sahib alle località collinari, i pappagalli che volavano nella giungla, le Aiha con le narici incastonate di rubini, i guanti di capretto conservati nei vasi con il marchio a vite. Tutto il fasto semplice e solenne della vecchia Madras la chiamava. La chiamava a sé, come le braccia scure e tintinnanti di bracciali d'oro e vetro colorato. Ma quando i richiami presero la forma di un circostanziato invito di zia Emmy, Laura si tirò indietro. Sollevò vaghe obiezioni e infine pronunciò il rifiuto che era stato implicito dentro di lei fin dal momento in cui l'invito era stato formulato. Non voleva abbandonare suo padre e neanche Lady Place. Era assolutamente soddisfatta della sua esistenza. Non desiderava altro che continuare a vivere come viveva sin da piccola. Recitava la sua parte di padrona di casa con pacata diligenza, spalleggiata a ogni passo dai fedeli domestici di campagna, innamorati quanto lei del rassicurante procedere delle giornate. In certe stagioni, un odore fresco e resinoso aleggiava per tutta la casa come un fantasma rustico. Era Mrs. Bonnet che sfregava i mobili con il tradizionale lucido a base di cera d'api, l'unico a garantire il dovuto lustro alle ante elegantemente bombate di stipi e credenze. Profumi tropicali pervadevano le giornate bigie dell'inizio di febbraio, in cui si faceva la marmellata esotica della propria zia Salomè. E il pomeriggio del Venerdì Santo, se c'era bel tempo, le volpi e le lontre impagliate venivano tirate fuori dalle loro vetrine, spazzolate e messe sul prato a prendere aria. Quelle erano tradizioni antiche, che risalivano a molto tempo prima di lei, ma il graduale accumularsi delle usanze familiari non si era mai interrotto, e nei ricordi di Laura le consuetudini dei Willows erano nell'insieme aumentate. La vigilia della festa di San Giovanni c'era il picnic a Potts Dingle. Tortino freddo di piccione, una tazza di sidro e appoggiate sull'erba le candele intorno a cui si affollavano le falene. C'erano poi la cerimonia della ghirlanda di lupolo che James aveva portato dalla Germania, la recita di Natale organizzata dai poveri dell'ospizio e un tipo speciale di cera lacca che si poteva far venire solo da Padova. Molti anni prima ai bambini era stato permesso di scegliere il menù per il loro compleanno e da allora in poi, il 17 di luglio, James gustava anitre e piselli seguiti da una crema di uva spina, mentre il 9 di dicembre veniva presentato a Laura un fagiano adagiato su un tripudio di penne tolte dalla coda. In fondo al frutteto cresceva indisturbato un campo di ortiche. La tata Quantrill, infatti, riponeva grande fiducia nelle proprietà depurative dei germogli mangiati in primavera, come diceva una filastrocca che sua nonna le aveva insegnato e che lei recitava in tono enfatico e cadenzato. Se ortiche in marzo mangiassero e in maggio artemisia bevessero, negli anni le belle ragazze, resterebbero. Molto volentieri, oltre a mangiare ortiche in marzo, Laura avrebbe bevuto artemisia in maggio, perché la filastrocca della tata, ripetuta tanto spesso e con tanta solennità, aveva catturato presto la sua fantasia. Aveva sempre avuto un'inclinazione per la botanica e aveva ereditato la passione per infusi e fermentazioni. Uno dei suoi primi divertimenti era stato accompagnare Everard alla fabbrica e guardarne le grandi tinozze, mentre lui, tenendola saldamente per mano con la sinistra, con la destra immergeva un lungo bastone nella schiuma grumosa. Con un leggero brusio, questa pian piano si scostava finché molto più in basso, attraverso quella fenditura che si apriva e subito tendeva a richiudersi, faceva la sua comparsa la birra. Ora, per Laura, la botanica e l'arte della fermentazione si combinavano in un unico interesse. Infatti, ispirata dalla filastrocca della tata, aveva rivolto la sua attenzione ai verdi sentieri dimenticati della farmacopea rurale. Da Evera ricevette in dono un piccolo alambicco e dai ricettari di famiglia molte informazioni e tanti consigli utili. E laddove questi venivano meno, Nicholas Culpepper o la vecchia comare Andrews, che avrebbe potuto essere degna amica di Nicholas a giudicare dal rispetto che nutriva per la Luna, erano sempre pronte ad aiutarla. Vagabondava per la campagna alle ricerche di erbe e piante medicinali e ricavava un grande numero di medicamenti decotti da mortella, porcellana, primule, radici di cicoria, e se in un primo tempo per le sue insalate raccolte nei campi e tra le siepi vennero consumate da Everard in segno di fiducia e sperando per il meglio, ben presto passarono ad essere divorate con lusinghiero appetito. Incoraggiata dal padre, Laura scrisse anche un libricino intitolato La salute lungo il sentiero, in cui raccomandava l'impiego di erbe e piante medicinali ormai dimenticate. Il volume fu pubblicato anonimo dalla tipografia locale e passò quasi inosservato. Everard prese quell'insuccesso molto peggio di lei e a sua insaputa comprò tutte le copie invendute. L'artemisia, tuttavia, non era citata nel libro, perché Laura non aveva mai avuto il permesso di assaggiarne le proprietà e non avrebbe mai incluso ricette che non aveva sperimentato personalmente. La tata era convinta che l'artemisia non fosse meno efficace delle ortiche, ma non sapeva come usarla. Una volta, tanto tempo prima, aveva preparato una tisana facendo cuocere le foglie in acqua bollente, poi l'aveva filtrata e l'aveva data da bere a Harry e a James. Ma siccome avevano vomitato tutti e due, da quel momento Mrs. Willows aveva proibito l'impiego dell'artemisia. Laura era sicura che la tisana di artemisia non l'avrebbe fatta star male. Pregò che gliela lasciassero provare, ma invano. Il divieto postole dalla tata era assoluto, quanto quello della padrona. Eppure la tata non aveva perso la sua fiducia in quel rimedio. Le spiegò che l'artemisia, adatta allo scopo, era di una specie particolare che nel Somerset non si trovava, ma cresceva in abbondanza davanti alla bottega del ciabattino nel paese in cui era nata. Molto tempo dopo questa conversazione, Lora trovò nelle miscellane di Aubrey una citazione da Plinio in cui si raccontava come Artemide avesse rivelato in sogno a Pericle le virtù dell'Artemisia. Era corsa a dirlo alla Tata che, per quanto compiaciuta, non aveva voluto ammettere che la sua convinzione avesse bisogno di riprove. Quei greci non sapevano mica tutto, esclamò, appuntando l'ago nella fragola di tela rossa punteggiata di perline gialle. Per quasi 10 anni Lora si occupò di Everard e di James. Niente venne a disturbare la tranquilla serenità delle loro giornate, tranne la nascita di una prima e poi di una seconda bambina a Harry e Caroline, ma anche quello non fu poi un gran disturbo. Everard, che era stato tanto contento di avere una figlia, era pronta a rallegrarsi anche di due nipotine. Quando Harry si scusò dignitosamente per l'inconveniente del loro sesso, Everard gli recitò la filastrocca che spiegava di che cosa sono fatti i bambini e le bambine. Vedendo che suo padre prendeva con tanta disinvoltura il possibile esaurimento della linea maschile dei Willows, Harry si sentì sollevato, ma avrebbe preferito che non scherzasse tanto sull'argomento. Non poteva abbassarsi a dimostrare a suo padre la falsità di quella teoria per nulla scientifica sui sessi. Osservò malinconicamente che una figlia poteva costare molto ora che si faceva un gran parlare di istruzione alle donne. Nella sua preoccupazione per il casato dei Willows, Harry aveva dato per scontato che il fratello non avrebbe mai preso moglie. E certo, se evitare un determinato argomento è segno di disinteresse al riguardo, James al matrimonio non pensava affatto. Aveva quasi 33 anni quando annunciò con la sua consueta imperturbabile repentinità che si sarebbe sposato. La sua scelta era caduta su una certa Sibylla Mole Weaver, figlia di un ecclesiastico, ma un pastore londinese dell'alta società. Il che senza dubbio spiegava come mai Sibyl non avesse nulla in comune con le figlie di pastori che Everard e Laura avevano incontrato fino a quel momento. Le gonne di Miss Moleaver erano tanto lunghe e sontuose che quando stava in piedi ricadevano in un ampio drappeggio sul pavimento tutto intorno a lei e per poter camminare doveva sollevare con entrambe le mani. I suoi cappelli raggiungevano altezze ancora inesplorate da qualsiasi cappello del Somerset e il suo cane era uno di quei Aberdeen Terrier che andavano tanto di moda. Era davvero difficile credere che quella creatura raffinata fosse nata e cresciuta in una parrocchia. D'altra parte, niente poteva essere più parrocchiale della sua determinazione ad amare i nuovi parenti e ad esserne riamata. Prese a chiamare Everard Waterlin, insegnò allora a ballare il cake walk e spiegò a Mrs. Bonnet come cucinare i petits canapés all'imperatrice. Avendo fallito nel tentativo di istruire Brewer sul modo di coltivare un giardino alla giapponese, si offrì di farlo lei stessa e, benché personalmente preferisse il vecchio legno di quercia, si proclamò incantata davanti al noce e al mogono dei Willows. Quella graziosa signorina cercava con tanta assiduità di piacere che sarebbe stato da villani da parte di Laura ed Evera rimanere indifferenti alle sue lusinghe. In realtà tutti e due si chiedevano in cuor loro che cosa trovasse James in una donna così irruente e vistosa, ma erano troppo discreti per ammetterlo anche solo a quattro occhi e si accontentavano di domandarsi educatamente che cosa trovasse Sibyl in un serioso campagnolo come James. Lady Place era una casa grande e che James vi portasse a vivere sua moglie sembrava la decisione più opportuna. Altrettanto opportuno sembrava che Sibyl prendesse il posto di Laura, quale padrone di casa. Le cognate disputarono la questione con grande civiltà, insistendo ciascuna sui diritti dell'altra come due regine che si fanno gli inchini davanti a una soglia da varcare. Ma Sibyl, in qualità di regina ospite, dovette soccombere alla gentilezza di Laura e assumersi le responsabilità della casa, con le quali si gingillò finché non scoprì di aspettare un figlio. Allora le riconsegnò pari pari a Laura, che da quel momento in poi si prefisse di ordinare petit canapé ogni volta che c'era un ospite a cena. Tutti i piccoli dubbi e dispiaceri che Everard e Laura avevano nutrito nei confronti della moglie di James furono fugati quando Sibyl partorì un maschio. Non sarebbe stato bello nei confronti dell'erede dei Willhouse presumere che sua madre non fosse ben nata quanto lui. Ma Everard non ebbe neppur bisogno di far venire in mente la duchessa di Suffolk perché Titus, con le manine grassocce posate sul seno della madre, Titus, un incorporeo tubare di felicità nella nursery al piano di sopra, avrebbe giustificato un'unione ben più discutibile di quella stretta da James. Un anno dopo, con grande solennità, Everard accese la prima solitaria candelina per il compleanno di suo nipote su una torta preparata da Mrs. Bonnet, glassata da Laura e ornata con una ghirlanda di fiori da Sibyl. Una corrente d'aria fece tremolare la fiamma ed Everard, prudente in fatto di cattivi auspici, ordinò di chiudere le finestre. In un pomeriggio di settembre, tanto smagliante, era strano vedere le conifere chinare il capo nel vento e udire l'aspro respiro dell'autunno correre presago intorno alla casa. Laura guardò la candela, capì la preoccupazione del padre, essendo a sua volta superstiziosa, trattenne il fiato finché non vide la fiamma raddrizzarsi e la prima gocciolina di cera colorata colare sulla stellina luccicante che faceva da portacandela. Quella sera, dopo cena, ci furono i fuochi d'artificio in giardino per i ragazzi della scuola. Everard e James ne spararono tanti che per un po' il cielo verso nord fu ornato da un folto mazzo di spighe fulgide che disseminavano tutto intorno il loro polline fiammeggiante. Manovrando quella luce radiosa, Everard si eccitò tanto che, accaldato, dimenticò il vento freddo e si tolse il cappotto. 2 giorni dopo lamentò un dolore al fianco. Il dottore aveva un'aria grave quando uscì dalla sua camera, sebbene Laura l'avesse sentito ridere con il vecchio amico e prenderlo in giro per il berretto da notte. Everard aveva un'infiammazione ai polmoni, le disse. Avrebbe fatto venire 2 infermiere. Le infermiere arrivarono e i loro grembiuli bianchi inamidati sembrarono allora lapidi senza iscrizione. Fin dal principio la sua anima si raggomitolò su se stessa per la preoccupazione, e in verità da quel momento in poi nessuno nutrì più grandi speranze per il vecchio. Quando era in sé, stava tranquillo con il viso girato verso la finestra e guardava le rondini che volavano senza posa da un albero all'altro. Sarà un inverno rigido, disse allora. Si stanno radunando presto per partire. Poi aggiunse: Credi che sappiano dove vanno? Certo, rispose lei per confortarlo. Lui la guardò con sguardo penetrante, sorrise e scosse il capo. Allora ne sanno più di noi. Quando nonno Harry, quell'uomo energico, aveva varcato il confine, si era portato dietro una schiera patriarcale di valletti e cameriere, giumente, cavalli e spaniel. Carrozze piene di suppellettili e lenti carri carichi di fronde ondeggianti. Voglio essere sicuro di poter ancora mangiare una buona mela, aveva detto, dato che mi trasferisco a Lady Blaze per sempre. La morte era un'altra faccenda. Il cimitero dei Willows era nel Dorset e Harry non avrebbe voluto riposare in nessun altro posto. Ora toccava a Everard. I morti sembrarono accoglierlo senza stupore. Gli Everard e i Titus, le Lori e l'Emmeline del passato lo aspettavano, sicuri che sarebbe arrivato, e approvarono la sua decisione di unirsi a loro. Laura stava in piedi accanto alla fossa aperta, ma la vista della terra smossa e delle assi buttate qua e là la disturbava. Corse con gli occhi alle tombe già ultimate e la sua mente le raccontò la storia di ciascuna, storie che conosceva bene. Mrs. Willhouse andava al cimitero 4 volte all'anno e per la piccola Laura accompagnarla in quelle spedizioni era un solenne e piacevole onore. In estate soprattutto era bello sedersi sul muretto sotto la fitta tettoia di tigli o passare le dita sulle lapidi, ora calde, ora fredde, mentre sua madre andava di tomba in tomba con i guanti da lavoro e il cestino da giardinaggio. Più tardi mangiavano i panini in un prato e andavano a far visita alla vecchia Mrs. Diamond, i cui figli e nipoti avevano ereditato il compito di tagliare le erbe e regolare le siepi del cimitero. Con il passare degli anni, la parte attiva di queste gite era passata Laura e negli ultimi tempi, quando ormai le faceva da sola, le era capitato spesso di lasciarsi andare alla fantasia e immaginare che la madre morta, di cui accudiva la tomba, fosse seduta un po' più in là, all'ombra, e le andasse incontro per metterla al corrente di chissà quale curiosa caratteristica di un prozio sepolto lì vicino, che le era appena tornata in mente arricchita di elaborati dettagli. Le api ronzavano tra i rami immobili dei tigli. Ogni volta che i parenti sfioravano i sempreverdi, si alzava pigro l'odore caldo delle bacche. Il sole, calato soltanto di un'ora, splendeva sul piccolo gruppo con interesse ardente e instancabile. Nel mezzo della vita conosciamo la morte, disse Mr. Warner Bow, la cui voce aveva un che di sfrontato, tolta dalla chiesa ed esibita lì allo scoperto, nell'aria senza echi che si crogiolava al sole. Nel mezzo della morte conosciamo la vita, pensò Laura. Sarebbe stata un'espressione più adeguata al momento. Il suo esile corpo, circondato dalla luce violenta del sole, sembrava pervaso da un'intensa, pulsante vitalità e rispondeva al calore, ai profumi, ai colori in modo del tutto impersonale. Con occhi ciechi, vide nitidamente la bara calare nella fossa e la terra cadervi sopra palate. Avvertiva il movimento intorno a lei, il gruppo degli astanti che andava sfaldandosi, passi che si allontanavano. Tuttavia, non le venne fatto di pensare che anche per lei fosse giunto il momento di andar via. Restava lì a guardare il sagrestano, che ora si era messo al lavoro con piglio più risoluto. Un braccio cinse il suo. Una voce disse: «Lora cara, dobbiamo andare adesso!» E Caroline la portò via. Lora vide che aveva le guance rigate di lacrime. Sembrava piangesse perché era ora di andare. Avrebbe voluto girarsi a guardare indietro un'altra volta, ma Caroline glielo impedì. Scuoteva la testa sospirando mentre le lacrime si rincorrevano più rapide. Arrivarono all'uscita e il cancello si chiuse dietro di loro con un clic soddisfatto. Erano state le ultime ad andarsene. Di fronte al cimitero c'erano i cancelli della vecchia villa. Da lì partiva il viale, lungo, diritto e ben curato. Ai tempi in cui la casa era una fattoria, quella era una strada carrabile che attraversava un campo. In fondo al viale si ergeva l'edificio di pietra grigia. Una clematide violetta rivestiva la veranda e un gatto bianco dormiva sul letto di nasturzi. Le imposte erano chiuse per rispetto al morto. Lora guardò la casa. Fin dalla sua prima infanzia era stata un'immagine familiare, un pensiero familiare. Ma ora la vedeva con occhi diversi. La invase un presagio di esilio e, dimentica di Lady Place, guardò la dimora abbandonata tanto tempo prima, con lo struggimento di un reietto. La casa somigliava a una vecchia bambinaia cieca, seduta al sole a rimuginare venti lontani. Sembrava un atto di terribile ingratitudine lasciarsi tutto alle spalle e andarsene senza nemmeno una parola affettuosa, ma i cancelli erano chiusi. Il tempo del benvenuto è ormai passato. Rimasero un po' sulla via, nessuno si muoveva, nell'attesa che qualcun altro prendesse l'iniziativa. Un alto pioppo cresceva a sinistra dell'entrata del cimitero. La sua ombra magra intaccava appena la superficie bianca della strada. Un nugolo di vespe ronzava intorno al tronco e a un certo punto una punse Harry. Sembrò il segnale che tutti aspettavano. Si girarono e si avviarono verso l'angolo dove sostavano le carrozze che li avrebbero riportati alla stazione. Tutti erano dispiaciuti per Lora perché sapevano quanto amasse suo padre. Pensavano che fosse un bene che Harry e Caroline la portassero a Londra. Speravano che quel cambiamento l'avrebbe distolta dal suo dolore. Nel frattempo c'erano molte cose da fare e anche quella era una distrazione. Bisognava smistare vestiti e oggetti vari, andare a far visita ad amici e anziani ex dipendenti, rispondere alle lettere di condoglianze. A parte questo, Lora doveva far piazza pulita del cumulo di cianfrusaglie che aveva racimolato un po' da ogni parte. Aveva vissuto per 28 anni in una casa in cui non mancavano certo gli armadi e dove il non buttar via era una tradizione consolidata. L'accumulo era quindi di proporzioni considerevoli. C'erano vecchi giocattoli, lettere, sassi di forme strane o colori brillanti, quaderni, acquerelli che ritraevano i cani o il giardino. Un fascio di carnet di ballo conservati per le matitine che li accompagnavano, e tutte le matitine legate insieme da un nodo inestricabile. Ricami mai terminati, cofanetti portagioie, ritagli di giornale e oggetti inspiegabili che potevano soltanto essere ricordi di cose ormai dimenticate. Passare in rassegna quel coacervo divertì superficialmente la sua mente, ma una volta eliminato ogni cosa, ebbe l'impressione di negare alla propria giovinezza un qualsiasi significato. Queste occupazioni la tenevano lontana tutto il giorno dai suoi compiti consueti. Tuttavia, al crepuscolo, usciva di casa e andava a passeggiare sotto i noci in fondo al giardino. L'aria fredda che saliva dal terreno le parlava tristemente di sepolture. I sentieri coperti di muschio erano muti e umili sotto i suoi passi e gli odori dell'autunno dividevano con lei la sua pena. Brewer, il giardiniere, calpestando le ceneri del falò, la guardava andare avanti e indietro, una figura sottile che si muoveva pacata tra i rami immobili. Lui era il solo fra tutti i domestici ad aver accettato la scomparsa del padrone senza dare in esclamazioni disperate. Per lui La morte delle persone anziane era un pensiero innocuo, ma guardando l'ora sospirava profondamente, come se l'avesse piantata con le sue mani e ora la vedesse spezzata e abbattuta dal maltempo.